plasma mi riempi, mi Spirito Santo, con il tuo amore io ti invoco, Dio della pace, brucia ogni male nel cuore, guarisci ogni mia infermità, nel nome di Cristo Gesù, del sangue suo dato per noi. Via il serpente perfido che inganna il mondo e gli eletti di Dio. Nel tuo nome si pieghi ogni cosa nei cieli, in terra e sottoterra. Gloria a te, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, in nome del Verbo di Dio fatto carne, salvezza di ognuno di noi che fino alla morte obbedì. Via, venga in mio aiuto chi gli schiaccio il capo, la Vergine Maria. Via da me, via da me, il nemico della salvezza mia, salvami, difendimi, sotto la tua potente mano, Dio, tu che sei il mio re, il Cristo su cui potere non ha, premi e fuga davanti al tuo nome, santo e terribile. Avrò timore del male se tu agisci in me con potenza. Armami della tua grazia contro le tenebre dei principati e delle potestà. Spezza ogni malvagità, sia libera la vita mia. Via, scaccia il veleno di chi seduce l'umanità. Via da me, il nemico della salvezza mia, salvami, difendimi, sotto la tua potente mano, Dio, tu che sei il mio re, il Cristo su cui potere non ha, tremi e fuga davanti al tuo nome, santo e terribile. Tutte le cose visibili ed invisibili ti supplichiamo di liberarci da ogni insidia del male che attenta alla nostra anima. Sciogli ogni sua falsità, svanisca la sua tirannia. Oh Dio, rendimi incolume, salva il tuo servo, santificami.